già presenti e verso avanti, giorni che il mare muove uguali da millenni, e che mi muovono da dentro, mi muovono da dentro, e sento che per andare da qua giù sarà cammino, e la fatica di godersi da vicino, che prima di pensarla solo questa strada, io t'ho cercato, mica vada come vada. Guarda che luna con le canzoni, non ti aspettavo, loro e lei nuovi, e guarda avanti, si stiamo a. Dicevo per andare, che da qui che si diventa, ci si organizza un po', si inventa, si cambia e mai si arriva là. Perché da qui che si diventa, lungo la curva di un respiro, sulle tracce di un destino. La vita è un po' fortuna e non è stato un incidente.